stato, il più svitato, liricalmente scompassato che esiste in questo stato. Pronto a una nuova sfida, preparato una lirica esaustiva. Il più veloce, mentalmente corrotto maniaco che tutt'oggi si domanda se... Sarò male per famoso, per favore, sono curioso di sapere il mio futuro. Sarà duro, lo prenderò nel culo, farò storie e glorie, lo assicuro. Ciò che mi aspetto, voglio rispetto, sono un ragazzo sveglio e rappo, pazzo al razzo. Cazzo, sono un pupazzo di un ventriloquo con uno schema libero. Scrivo ribelli, stile a fine, fisso ciò che mi viene, anche se non conviene. Contiene sapere verità, il mio cantiere rima a spiegare ciò che mi viene dal cuore, cercando giuste parole tra misteri e favole, misteri intellettuali versi la mia ragione di vita. Con la matita muovo le dita come un campione, gioca a pallone, fa gol, emozione, bella zio Emone. Ho la fila al portone ad urlare il mio nome e mi rasbalzi il rumore, mi viene da gridare, continuo a sparlare, a sparare la voce come la luce veloce per ingabbiare il rumore che riduce il neurone in tensione e spazio il tempo. Sono il silenzio spezzato da un campo in campo, colpisco come un lampo francamente stanco. Un cancro nella testa che ti infesta la siesta, se mi nesto poi non esco, puoi starne certo. Il mio concetto in concetto è qualcosa di fresco, rap un po' diverso dal solito lento. Ci sei subito dentro! Questo è il commento, un bimbo spento non fa spavento, perché sul pezzo e ci da dentro tiran sul petto, gonfi i polmoni, sconfi i coglioni, pronto a cantare ciò che sta per arrivare. Io sono S, io sono Six, io sono G, sono i 60. Vengo i versi e i tempi persi e non resisti anche se insisti. Io sono S, io sono Six, io sono G, sono i 60. Vengo i versi e i tempi persi e non resisti anche se insisti. Quando inizio un verso nessuno mi sta dietro, non è poi diverso da una ruota nel vetro. Verso il verso dentro con parole in metro, seguo il mio pensiero, non metto mai la retro. Metto il nitro, ogni litro essenziale per inseguire il discorso iniziale. Intimorire chi prova a seguire normale, stai male, reale, il finire per respirare. Tengo posizione, niente cambia stazione, seguo la ragione, fermo con decisione. L'intenzione è farti pensare, campare una vita piatta, una fine sciatta. Se ti senti dire schiappa, porgi l'altra chiappa. Non essere uguale a chi dice il giusto, che pensa il giusto, magari sbagliato. Parla sfracafiato, dice sei cambiato. Pensare reato, risparmio il fiato. Niente predica, c'è già di domenica. Mastica sta musica elastica, plastica, mastice, plastico e giù la mia lirica. Sono S, io sono Six, io sono G, sono i 60. Vengo i versi e i tempi persi e non resisti anche se insisti. Io sono S, io sono Six, io sono G, sono i 60. Vengo i versi e i tempi persi e non resisti anche se insisti. Volevo candidarmi alle prossime elezioni e così esaudire i vostri voleri, ma mi son detto mica son scemi, son già nei loro pensieri e ne vanno fieri. Così ho cambiato meta, mi sono messa a dieta, bastare il giubifietto che sfidiamo Piotta, vedo già una gola rotta, Cressini par ricotta, pronti su nel banchetto, vincerò ad effetto. Tutti giù il cappello, non vedo più l'ombrello, ho messo su un impero, sono il re del castello. Ho amici dal bidello fino al padron d'ostello, ho trovato pure quello nel sciacquone del prefetto. Con questo adesso è tutto perfetto, ho messo nel testo il giusto concetto. Il tempo ora cerco per chiudere il pezzo, ragazzo stai fermo, ora c'è il ritornello. Ormai tutto finito, mi conosce meno a dito, il tempo ti ho condito con ritmo stile sputo. Da quanta bava ho fatto, sembra che ho bevuto, ma con sguardo al butto capisci non è vero. Ed ecco il mio saluto più sincero, dopo aver detto che son fiero di me, del colore del mio pelo e di sto siero strano che mi ha preso la mano e mi fa cantare, ma le va a cantare. Sono S, io sono Six, io sono G, sono i 60. Vendo i versi e i tempi persi e non resisti anche se insisti. Io sono S, io sono Six, io sono G, sono i 60. Vendo i versi e i tempi persi e non resisti anche se insisti.